per le vie della città, col vocabolario ed al rancor. Io ti seguo sempre fino all'università, con la smania e il tremito nel cuore. Quando poi sorridi con amore, pieno di fervore canto a te. Oh signorina, tu tempesta dell'università, così carina, nel sorriso hai una profondità. Ma forse un giorno, col rimpianto il tuo cuore penserà, quando lo chiami il libro di rapino per un domandino. Pensavi a me che ero vicino e ogni or cantava a te. Signorina e signorina, la studentessa dell'università. Oggi spensierata, ma domani chi lo sa, quante cose cambieranno e allora. Quanta nostalgia pensando all'università e la giovinezza del tuo cuore. Eri tanto taglia e birichina, quando sospirava senza te. Oh signorina, studentessa dell'università, così carina, nel sorriso hai la giocondità. Ma forse un giorno, con rimpianto il tuo cuore penserà, quando la scavi di latino per un giovanottino. E non pensavi a me che ero vicino e ogni or cantava a te. Signorina e signorina, la studentessa dell'università. Quando lasciavi il libro di latino per un giovanottino, e non pensavi a me che ero vicino e ogni or cantava a te. Signorina e signorina, la studentessa dell'università.